later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli non c'è più religione, Kappa e Drago vanno alla ricerca dei microfoni nascosti. No, ma cosa guardi? C'è il buco nella tasca qui, guarda. Vuoi che abbia un microfono addosso? Sono. Ma non ci sono. Ma dovrebbero esserci. Ma come? Ma la fabbrica è grande, Kappa. Sai quanti posti ci sono in cui nascondere microfoni, telecamere? E allora? Fammi vedere un attimo, Drago, scusa. Chinati. Ma cosa chinati? È un'impresa disperata, Kappa. Lasciamo perdere, dai, mi sono stufato. Ma come? Preferisci forse essere preso in giro da tutti, ma Drago? Tutti chi, dai? Far parte di un Truman Show italiana senza poterti ribellare? 10 anni dopo, vedere. Chinati sì. Un attimo. Chinati. Dov'è la tua dignità personale, Drago? Non è certo chinandomi che recupero la mia dignità personale. Poi, fino a prova contraria, l'ipotesi che qui stiano girando un reality show l'hai tirata fuori tu, senza motivi. E tutti ti stiamo venendo dietro, più per noia che per altro. Ma come per noia? Eh sì. Ma cosa vuol dire? Qui non succede mai niente. Appena esce una notizia, anche falsa, che muove un po' le acque, sono tutti contenti di crederci e di alimentarla, no? Adesso c'è la febbre delle nomination e tutti i polli, anche i più sfigati, sono lì, tutti agitati, che discutono chi nominare e perché. Insomma, una confusione pazzesca. E poi anche in generale c'è proprio un'aria ostile, si respira una cattivissima aria tra forza. I polli, tutti nervosi. Ma capo, è il meccanismo crudele del reality e delle nomination. Tutti contro tutti, come i polli dei Promessi Sposi. Ah, i polli di Renzo, ignari di essere accomunati dal destino comune della pentola, si beccavano tra loro, proprio come le etnie rivali africane, armate di nascosto dalle potenze occidentali e colonialiste. Sembrerebbe proprio che il mondo non cambi mai, ed è sempre di stringente attualità il dramma planetario de... La carneficina colonialista! Viva todos! Indias malditas! Viene qui! Está con brazos de agua con fuego! La fabbrica di polli. Aia! Aia! Sta male, Tare. No, perché tu adesso col piercing stai proprio esagerando, Aia! Poi vai da quei pancabestia del quartiere con la camaxima. Cosa ti aspetti da quelli? Che usino orecchini e anelli sterilizzati? Ma non farmi ridere. Lì ti fanno il piercing che marciscono all'istante, Non appena il metallo entra a contatto con la tua carne, e lì scatta la cancrena, La cancrena! Sì, cancrena. Praticamente vuol dire che una parte del tuo corpo va in malora. E puoi anche tagliartela via senza che succeda niente, Però l'infezione ti manda in malora anche sangue. E sangue tu lo sai che circola dappertutto, nelle vene, nelle arterie, no? Di cancrena! Ma niente, lascia stare, Tare. Con te non si può dare niente per scontato, perché tu sei come un computer appena comprato, senza software, sei in terreno vergine, in vuoto assoluto. Sì, Aia, ma cosa fai adesso con tutti sti chiodi piantati a casaccio? Ti viene un febbrone per l'infezione e muori, ma lo sai? Ma lo sai o no? Cancrena! E poi muori. Casellante sempre triste, nel tuo cubo di frontiera, quante macchine avrai visto, da mattina fino a sera. Casellante, sei annoiato, non mi degni di uno sguardo, tu ti sei accorto che ho pagato, mentre guardi e riguardi la TV. Casellante, adesso ascolta Radio 3, che stanotte si parla anche di te, casellante. Non è vero che sei trasparente, casellante. Casellante, sei importante. Capo, ho fatto un sogno, stavolta me lo ricordo, volevo raccontartelo. Vedi, drago. Cosa ti dicevo? Ecco, è solo allora questione di avere la memoria allenata. Sì. E poi i sogni te li ricordi. Certo, tu sei sempre lì sfiduciato, eravamo. E dici che non sogni mai, sei sempre negativo. Invece anche tu, come tutti, hai la tua bella attività onirica. Sei contento? Certo. Ecco. E quindi adesso racconta. Cosa? I sogni. Ma... Cosa? Adesso me lo sono dimenticato. Ma come? Sì, ma me lo ricordavo. Stavo per raccontartelo, ma tu mi hai interrotto. Ma come? Non me lo ricordo più. Accidenti, K, tu e la tua logorrea. Dai, sforzati, drago. Di cosa parlava? Non me lo ricordo. Dai, che sapore ti ha lasciato? Incenso. Cos'è, c'era una cerimonia in chiesa? Forse. Dai, allora, concentrati. Sì, chiudi gli occhi, concentrati. Allora, sì. Chiudi gli occhi. Così? Concentrati. Allora, chiudi gli occhi. Ma così mi riaddormento. Ti sto ipnotizzando. Anzi, per essere precisi, ti sto mesmerizzando. Mi stai cosa? Mesmerizzando. Non sai cos'è la mesmerizzazione? Drago. Drago. Hans Anton Mesmer, 1734-1815, si interessava molto di scienze naturali, ma anche di alchimia e di esoterismo. Dapprima egli tentò di trovare cura per malattie utilizzando magnetismo minerale, applicando ferro calamitato su pazienti. Infine elaborò studio di mesmerismo o di sonnambulismo artificiale, che può essere considerato precursore dell'ipnosi. In seguito si scoprì che i pazienti guarivano per effetto placebo e quindi Mesmer tornò a fare esperimenti su topolini tutto solo in suo laboratorio di scienziato pazzo. Niente, non ci sono microfoni, non ci sono telecamere, la tua è solo paranoia. Ma quale basta, paranoia? Gli indizi sono moltissimi. Siamo spiati e questo è un reality show. Dove siete? Dove siete? Mi state vedendo, io lo so. Dove siete? Chi siete? Mamma mia. Cappa, smettila. Mostratevi a me! Io vi sfido! Cappa, smettila, stai gridando a vuoto. Come Flejas. Come chi? Divina Commedia, drago, canto ottavo. Flejas, Flejas, tu gridi a vuoto. Sì, ma Cappa, cosa c'entra adesso? Vuoi farti bello con gli autori del reality immaginario? Il concorrente che ci dà Dante è una rarità pittoresca, dai, Flejas. Ehi voi, voi che spiate dai monitor a parete nei vostri uffici lussuosi. Voi che controllate le vite degli altri in nome di un solo Dio, il profitto. Voi che credete che noi non sappiamo, ma invece noi sappiamo che voi siete contro di noi. Cappa, ma stai regredendo, parli come Jack Folla. Perché per voi che siete fuori di qui e per noi che siamo costretti a stare nella fabbrica, la vita ha un gusto diverso, ma paradossalmente per noi attori della fiction la vita ha un gusto più autentico che per voi. Schiavi inconsapevoli del sistema che avete creato. Fantastico. Non hai detto niente e sei riuscito a parlare quasi un minuto. Che cosa succederà adesso? Chi siamo noi? E chi siete voi? E chi sono loro? E questo? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo analgesico allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non muoce quasi mai... La fabbrica di polli, un programma di Cappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.